Sera per BGZ. Rorossini. Stiamo allestendo questa vettena. Il tuo senso è sesto, il mio no, e non è primo a nessuno. Non è amore se non odia al buio. Se ti piastri i capelli utilizzo l'arci. Se ci riesci cresci, se son crespi smetti. Come vedi trovi, come spiego riprovi. Riproponi i tuoi istinti e che movenze perverse. Poi riponi i tuoi dischi e sono decadenze. È il degrado che danza ma non sente il freak. È il confusionismo, un balletto isterico. È l'espressionismo, un impero senza fondamenta. Una nota di dissenso che ti dà la tuta. Se ci credi concludi, chi non vuole crepi. Chi ha fatto politica ha chiuso con l'anima. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito non è mai guarito. Chi ha fatto politica ha chiuso con l'anima. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito non è mai guarito. Adesso prendi il posto di qualcun altro. Non mi sento vitaminico, sai. E se mi dessi forza tutto andrebbe meglio. E non importa se non ballerai. Non basta il sonno per farmi nervi. Non chiedo niente, non voglio fermi. Non posso dirti che sono mesi che vivo ai margini e ho le vertigini. Se un aborto è bianco ci sono gli estremi. Per condannarti, per farti fuori. Non sto sclerando per il momento. Sto consumando i miei giorni migliori. Facendo pacchi, allestendo fallimenti. E mai investendo sui miei talenti. Non me ne sto pentendo. Solo dicendo chi ha fatto politica ha chiuso con l'anima. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito non è mai guarito. Chi ha fatto politica ha chiuso con l'anima. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito non è mai guarito. Abbiamo un mondo intorno che vuole tutto. E stiamo sbagliando sogno, stiamo seguendo il falso. Abbiamo sbagliato porto, ci ritroviamo a largo. Ma con le palle in mano, eppure senza tempo. E non me lo ricordo perché ho le palle in mano. Ma non le mollo pure vado a fondo. Quindi faccio memoria e scavo dentro al tempo. Trovo un percorso per un passatempo. Sono bestie, credono ai fantasmi. Lavano il cervello e appiccichi sul corpo i loro marchi. Nanchi che stanno lavorando per te. Nanchi che non ci vogliono fottere. Bestie, credono ai fantasmi. Lavano il cervello e appiccichi sul corpo i loro marchi. Nanchi che stanno lavorando per te. Nanchi che non ci vogliono fottere. Quanto politica non ci vogliono fottere. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito non è mai guarito. Chi ha fatto politica ha chiuso con l'anima. Chi ha chiuso quei soldi si è perso per strada. Chi ha perso la speranza ha finito il tempo. Chi ha finito e non è mai guarito.